semplicemente stanca, semplicemente. Ed è per questo che sto qui, ti guardo e penso, la solitudine non è di questo tempo. Aspettando risposta che conosce, che rinnegherai. E tu stai lì, nei miei occhi resterai solo un ricordo. Se la risposta che non dai, I think.